30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Palazzo Marino ricorrerà in appello contro l'ordinanza del tribunale che ha imposto l'assegnazione di 25 alloggi popolari alle famiglie nomadi in uscita dal campo di Triboniano a Milano. Non c'è alcuna delibera comunale dove c'è scritto che avremmo assegnato appartamenti ai Rom, spiega il vice sindaco Riccardo Decorato. C'erano state solo delle preintese tra prefetto, comune e Casa della Carità, ma che non avevano nessun carattere vincolante. Lo sgombero del campo Rom di Triboniano è una vicenda che si trascina da anni. Sull'area dovrà passare un'arteria di collegamento al futuro sito dell'Expo. Ancora buonasera e naturalmente buon Natale a tutti voi da Gigi Donelli, da Filippo Oreggi questa sera dietro il vetro della regia. Parliamo di una storia milanese ma che sicuramente non riguarda i milanesi, una storia che come avete sentito nel lancio si trascina da molti anni, una vicenda complessa che come dire, tocca i temi della città, dell'integrazione, del cambiamento, ma anche probabilmente della nostra capacità di adattarci alle circostanze, agli eventi. Il nostro ospite di questa sera è Don Virginio Colmegna, grazie di essere con noi. Buonasera. Buonasera Don Colmegna. Dunque, per chi magari non è di Milano, Don Virginio è un sacerdote da 40 anni, nel 93 è stato nominato dal Cardinale Martini direttore della Caritas Ambrosiana, quindi un ruolo molto importante. Poi negli anni, dopo avere diciamo sviluppato molti impegni, nel 2004 Don Colmegna lascia la direzione della Caritas Ambrosiana per dedicarsi a tempo pieno alla fondazione della Casa della Carità, di cui si occupa tuttora. Uno stringatissima versione di curriculum vitae, Don Colmegna, ma insomma per esigenze di tempo le chiedo subito, allora che cosa sta succedendo intorno al campo di Triboniano oggi a Milano? Ma sta succedendo semplicemente che da tempo siamo lì, questo campo è un campo regolare dove ci sono 102 famiglie, o c'erano, perché adesso con tutto il lavoro che stiamo facendo alcuni sono già andati a cercare case sul mercato privato, è arrivata un'indicazione che deve passare l'Expo e quindi va chiuso questo campo che è un campo regolare, e da allora si è cercato insieme con l'amministrazione, stando in mezzo a tanto tempo, di trovare delle soluzioni estremamente possibili perché di fatto non succeda uno sgombero ma ci siano soluzioni che vanno verso l'autonomia abitativa, verso l'accompagnamento al lavoro, l'inserimento dei ragazzi a scuola col famoso patto di legalità e di socialità, e si è lavorato col comune sempre insieme per trovare delle soluzioni, si è lavorato duro, come si dice, condividendo in certi momenti anche di grande tensione, abbiamo riscoperto e ritrovato la fiducia di quelli che non vogliono stare al campo, le famiglie, sono venute tutte a fare colloqui, le hanno fatte in Casa Carità, in comune, insieme, tutte queste famiglie hanno fatto dei progetti, alcuni di rientro in Romania, alcuni direttamente sul mercato privato con una serie di incentivi, anche se è molto difficile perché il clima che arriva, se uno vede il residente in via Triboniano, la casa è difficile che gliela dia. Abbiamo individuato 20 situazioni dove di fatto non c'è ancora lavoro fisso, è difficile andare sul mercato privato, si è cercato, lo stesso comune ha sollecitato la regione di mettere a disposizione delle realtà associative, vedo in questi giorni si dice che il sindaco dice o il vice sindaco non dare case ai Rom, ma non sono mai state date queste famose 20 case ai Rom, sono adesso state date ci arriviamo. A Casa della Carità, la quale fa un progetto di accompagnamento con delle famiglie che temporaneamente attraverso questa presenza ricostruiranno le condizioni per andare ad abitare sul mercato privato. Questo lo facciamo con i Rom, con tutte le situazioni di fragilità, fatto tutto pronto, tutti i colloqui, e poi è successo quello che è successo, ma noi andiamo avanti serenamente perché anche il giudice ha dato ragione non a noi, ai patti che ha fatto il comune che li ha firmati, ecco, ma dietro abbiamo paura di un clima che si apra, che è un clima evidentemente di discriminazione, che apparentemente suscita tanto consenso, perché lanciare lo slogan danno le case popolari ai Rom invece che agli italiani fa scatenare evidentemente anche a me. È chiaro, scatenare. È chiaro, anche perché sono state usate delle espressioni abbastanza dirette come saltano la coda, vengono favoriti, è ovvio che nessuno vuole sentirsi scavalcato e sicuramente sarebbe ipocrita dirlo, dire il contrario, c'è una ipersensibilità ai Rom, a tutte quelle comunque gruppi sociali storicamente ai margini della società. Arriviamo a entrare nel dettaglio di questa storia. Io però vorrei sentire, chiedo a Filippo Auregi di lanciare il nostro un primo contributo audio. Dobbiamo impegnarci tutti quanti insieme a rispettare la legge, i diritti, ma anche a compiere il nostro cammino faticoso, lungo, ma è possibile. Noi abbiamo tanta speranza, noi vogliamo impegnarci insieme. Ecco, questa è la voce anche concitata in mezzo a una folla rumorosa del cardinale Dionigi Tettamanzi, che due giorni fa ha visitato il campo di Via Tribognano. Insomma, una cosa piuttosto clamorosa anche in termini mediatici. Soltanto ci sono delle foto, devo dire, molto belle di questo signore anziano con i suoi abiti e appunto che cammina in mezzo al fango in questo campo, perché che circondato però dai sorrisi di una comunità evidentemente stupita e si suppone molto grata. Certamente, anche perché è stata una scelta che sempre fa intravedere che è una carica anche evangelica che ci sta dentro rispetto a questo. Poi la traduzione politica istituzionale andrà dentro in certe strumentalizzazioni, ma non strumentalizzare questo significa che trovare dei bambini disabili dentro in mezzo al fango e altro, per esempio in una situazione dove si è fermato il cardinale, ha detto sono senza parole, ed è vero, allora uscire da questo campo, riaprire delle condizioni, appartiene a una scelta istituzionale, ma soprattutto a una presenza umana che fa crescere speranze. E l'hanno detto, perché il cardinale poi, prima di incontrare, è andato il campo, è andato alle figlie, ai residenti, con le quali noi abbiamo un rapporto bellissimo, le quali soffrono tantissimo per la presenza di un campo che è irregolare, non è beatificato, anzi è carico di contraddizioni, di sofferenze. Loro che abitano lì, che hanno sofferto tantissimo, hanno avvertito positiva la presenza del cardinale, perché sono anche stanche di quelli che hanno parole, ma dove diventano tutti questi strumenti di scontro ideologico. Noi siamo stati attaccati da chi era contro il patto di socialità e legalità, quelli che vedi Ron tutti vittime, e dall'altra siamo stati attaccati anche da chi invece vede che siamo impropriamente detti buonisti. Siamo stati nel mezzo, abbiamo fatto denunce, abbiamo costruito legalità, e adesso questa realtà permette a queste famiglie di ritrovare il campo. Ma questa è la carica evangelica, però, che è estremamente importante, che è consegnata a questa città come risorsa preziosa. Ecco, Don Colmenia, appunto, le famiglie che stanno intorno, lei c'era un momento anche di disturbo nella trasmissione, l'ha detto il cardinale, prima di andare nel campo è andate dalle famiglie che abitano nel quartiere, abbiamo capito bene? Esatto, cittadini che è lì, che soffre da anni di una presenza di un campo che non era controllato, poi dopodiché ha presenze evidentemente che ogni sgombero che fa, ne hanno contati 350, non è che queste famiglie scompaiono, vanno, si disperdono sul territorio. La scelta qui era non sgomberiamo il campo, oltretutto non è possibile, ma facciamo sì che non si creino piccoli campi ancora abusivi attorno. Le famiglie hanno condiviso questo, da anni hanno sentito promesse, non ci sono, hanno avvertito che solo chi sta in mezzo alle situazioni offre con loro possibilità serie, tiene la barra dritta sulla legalità e sulla socialità, ricostruisce fiducia, perché se il cardinale è venuto lì è stato accolto bene, anche perché c'è un lavoro prezioso fatto dagli operatori, dai volontari, che in mezzo hanno ricostruito la fiducia. Se queste persone non prendono più fiducia con noi, nasce uno scontro violento. Non dimentico che un po' di tempo fa sono state le bombole, c'è stato anche uno scontro violento con la polizia negli sgomberi, e noi eravamo addirittura accusati da alcuni del campo facinorosi, i quali individuano in noi quelli che vogliono affrontare socialità e legalità insieme, coi bimbi, con tutte le situazioni. Questo l'hanno avvertito i familiari e gli abitanti del territorio, si sono alleati anche con noi, ed è una piccola esperienza di far capire che chi vive la solidarietà intelligentemente, in modo sapiente, non è contro qualcuno, cerca di ricostruire condizioni positive per uscire, la solidarietà è capace di dare serenità e sicurezza. Questa è un po' la sfida anche culturale che abbiamo noi. Don Colmenia, cosa risponde a chi dice che in questa vicenda a un certo punto le famiglie rom finiscono ad essere privilegiate, cioè appunto saltano la fila delle assegnazioni, delle case, degli alloggi popolari? Hanno fatto la domanda regolare di casa popolare, che nella legislazione regionale prevede 5 anni di residenza. Alcuni l'hanno ottenuta normalmente, altri no, e sono in fila tutti. È chiaro che a questo punto c'era bisogno di un patrimonio da affidare alle realtà sociali. L'ALER da tempo per tutti ha più di 2.000 appartamenti dichiarati inagibili, che utilizza per tante situazioni da dare a associazioni del terzo settore, le quali prendono, ristrutturano, poi riconsegneranno dopo un po' di anni al patrimonio pubblico questi territori e li usano in questa fase investendo anche risorse per situazioni di fragilità. Questa realtà è stata utilizzata anche a questo livello per questa situazione. È chiaro che se si dice che Casa della Carità prende 15 alloggi, investe per la ristrutturazione, inserisce alcune persone con le quali poi ha lei una responsabilità e quindi si pone il problema dell'amministrazione sociale, non sta indicando una linea di scavalcamento delle linee, sta della lista, che ci certo. mancherebbe altro che si faccia questo privilegio, sta restituendo al patrimonio pubblico una realtà che altrimenti era lì chiusa, lastrata, come si dice. È chiaro che la demagogia dice che stiamo dando case popolari non saltando le graduatorie. Sarei io il primo a scendere in piazza se questo si fosse attuato. E ma siamo non è così. Certi che lo farebbe, visto che è in piazza da anni. Ancora una cosa, poi vorrei parlare anche della Casa della Carità. Insomma, quando De Corato dice ci sono state solo delle preintese tra prefetto, comune e Casa della Carità, quindi no, subito. Che significa? La sentenza del giudice è precisa, perché hanno firmato, addirittura le famiglie hanno firmato che dovevano lasciare il campo entro il 15 ottobre. Cioè c'è un documento. Esatto, firmato, ma io poi ho in mano, ho firmato tutti i contratti di affitto, non sono adatti a loro, ho già in mano tutti i contratti di affitto, ma arrivano le bollette di pagamento delle spese condominiali e dell'affitto, sono lì vuote, pago senza inserire le persone. È chiaro che sta creandosi veramente demagogia continuamente per cercare di utilizzare una realtà che invece dovrebbe essere utilizzata per superare il problema che tutti vogliamo, basta il campo. E invece si creano contrapposizioni che però hanno fini elettorali, che non c'entrano niente con questa situazione. Con questa vicenda. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera e ancora buon Natale naturalmente da tutti noi di Radio 24. Questa sera dunque la vicenda del Tribugnano, che ha occupato i primi minuti di 30 minuti in cronaca. Lo ricordo, il nostro ospite è Don Virginio Colmenia, un sacerdote che a Milano è molto famoso, molto noto per quello che ha svolto attraverso istituzioni come la Caritas e la Casa della Carità, appunto per chi ha bisogno. Ora in questi giorni in particolare si parla dei Rom, si parla di queste famiglie che da tempo cercano appunto una soluzione alternativa a quella del campo e di una città che ha bisogno di risolvere questa vicenda, ma naturalmente i problemi della città sono ben altri, ben più ampi, riguardano molte famiglie. Prima di parlare di città, Don Colmenia, vorrei chiedere una battuta, diciamo, conclusiva a suo avviso. Come si svilupperanno ora le cose intorno alla vicenda Tribugnano? Ma si svolgeranno, noi inseriremo le persone, le famiglie con le quali abbiamo già un rapporto regolarmente in questi giorni, saremo lì presenti, oltretutto il nostro cosiddetto presidio sociale ufficiale scade al 31 dicembre, quindi saremo anche più liberi di lavorare volontariamente nel campo, cercheremo di indicare, chiederci quali sono le date per la chiusura del campo, insisteremo per creare opportunità a tutte le famiglie che ci stanno in un percorso di legalità, incentiveremo, chiederemo anche ai privati di mettere a disposizione appartamenti, visto che si chiede, perché questi famosi 20 appartamenti alternativi che dovevano andare alternativi non si sono visti, c'è stata solo una proposta di una cascina molto da ristrutturare, che oltretutto farebbe scatenare rabbie, perché si è creato un clima così tanto di intolleranza che appena si dirà in questo condominio andrà una famiglia Rom del campo di Tribugnano, mi aspetto subito l'assemblea di condominio che dirà di no, perché si è creato un clima da una parte si dice chiudiamo il campo e creiamo tutte le condizioni perché il campo non si chiuda. Lavoreremo serenamente, anche perché le nostre motivazioni sono un po' più profonde delle battaglie elettorali, continueremo, spero che si chiuda questo campo in positivo, si superi e si lancia un messaggio di speranza a questa città che deve ritrovare l'energia solidale. Una Milano dell'Expo non può fermarsi su 20 case, che neanche 20 di case, deve ritrovare l'energia per superare i campi nomadi che da anni sono lì e diventano apparentemente campi regolari, ma qui dove c'è l'abbandono, la disgregazione e la violenza, anche se volete. Ecco. Allora, per superare i campi nomadi bisogna stare nel mezzo, sono le nostre frasi, slogan, pazientemente per un bene della città. Insomma, bisogna metterci le mani, avere il coraggio di fare, devo dire, quello che ancora questa immagine bellissima che ha fatto il giro dei quotidiani non solo milanese, del cardinale che cammina in questo fango. Devo dire che mi ha ricordato addirittura immagini di vecchi film in una Milano molto lontana, molto più povera per certi versi, ma forse come oggi una Milano anche spaventata, in cui aprirsi ai margini della sua stessa città rappresenta forse una paura di perdersi, dover cedere qualcosa. Insomma, la Casa della Carità, innanzitutto, che cos'è, che cosa rappresenta, in che modo raccoglie? È una realtà di ospitalità voluta dal Capitano Martini, dove ci abito insieme, dove ci sono tutte le persone che vengono accolte per percorsi di ospitalità temporanea, per avviare poi percorsi di inserimento, italiani, stranieri, uomini, donne, mamme con bambini. Attualmente sono più di 102 le persone che vi abitano lì, poi c'è stata una rete, in quest'anno sono passate migliaia di persone, pensi che ci sono anche famiglie rom, sono il 10% cosiddetto dell'ospitalità, ci sono giovani stranieri richiedenti asilo, ci sono italiani, stanno aumentando, ci sono esperienze di doccia, ci viviamo insieme, sviluppiamo attività culturali intense con loro, con la città, perché il Cardinal Martini, quando volle Casa della Carità, disse: la voglio come luogo per l'accoglienza gratuita, diventi risorsa per far intravedere la sapienza della carità, dialogare con tutte le forze, con le culture, abbiamo rapporti con le università, si vive però la quotidianità come laboratorio di esperienze di vita e di ospitalità, e questa è un'esperienza straordinaria che io vivo faticosamente, che poi non è tutto bello, ci sono le contraddizioni, le violenze, le durezze, accogliamo persone che vengono anche dal carcere, mettiamo assieme a dormire italiani e stranieri, bianchi e neri, con tutte le difficoltà. Le mamme, ieri abbiamo accolto in questi giorni una mamma italiana che è stata sfrattata, messa in strada con 5 bambini, abbiamo fatto la festa dei bimbi ieri, pensavo di 20 famiglie, poi abbiamo allargato questa esperienza al Parco Lambro, dove abbiamo delle casette insieme, abbiamo comunità di ospitalità col Centro Ambrosiano di Solidarietà. Le voglio dire, me lo lasci dire un pezzo di esperienza, in questi giorni di polemico ho visto una dichiarazione di un segretario di un partito che si oppone dicendo: la Moratti licenzi Don Colmegna, a parte che non ho nessun rapporto, non è dipendente dal comune, e chiuda i rubinetti a Casa della Carità. Ecco, la nostra accoglienza è gratuita e quindi abbiamo certo un problema di sostentamento, ma quello che il Cardinal Martini volle disse: accogli gratuitamente, cerca risorse poi con tutti, privati e pubblici, perché l'accoglienza gratuita non deve diventare una rete e poi accogliere tutte le persone, quelle che bussano, me lo lasci dire, abbiano il permesso di soggiorno o non l'abbiano, certo, per poi riportarli in una situazione di legalità e di presenza. Certo, Don Colmegna, a proposito di finanziamenti, riuscite a, come dire, recepite in questa la città, l'imprenditoria, si è fatto tanto parlare nella tradizione storica dell'imprenditoria illuminata milanese e così via, com'è il polso adesso della città? Ma è faticoso, sente la crisi, qualche volta cerca le situazioni che più danno anche consenso rispetto a questo, per noi che siamo in un'ospitalità che difficilmente suscita consenso, però c'è, penso a una realtà a cui restituisco il grande valore, penso alla Fondazione Caripolo, all'ingegnere Guzzetti, quali ci sostiene profondamente rispetto a questo, e poi ci sono tanti privati cittadini, la pensionata che mi dà i suoi 20 euro, stiamo creando questa rete di solidarietà, l'abbiamo chiamata Ospito Anch'io, perché ogni giorno di ospitalità di persone che stanno lì, mangiano, si accompagnano al lavoro, si inseriscono da noi, costa 25 euro al giorno, abbiamo lanciato quest'idea Ospito Anch'io per sostenerci con un giorno di questa catena della solidarietà che credo renda questa realtà, o deve rendere questa realtà, una realtà della città, perché il Cardinal Martini la volle come una fondazione che abbia dentro i garanti, che sono il sindaco, tra l'altro è scritto nello statuto, il sindaco e l'arcivescovo pro tempore, perché vuole essere una città, una realtà regalata alla Milano che riscopre nella solidarietà intelligente e sapiente una speranza nuova. La solidarietà intelligente e sapiente, che è un po' quello a cui appunto i milanesi vantano e richiamano, il fatto di non essere una carità che finisce lì, ma qualcosa che costruisce. Ecco, lei stava dicendo prima che ha citato degli italiani che aumentano. Chi sta arrivando? Chi chiede aiuto? Ma chi chiede aiuto, almeno nella nostra esperienza, sono certamente italiani che hanno avuto delle crisi, tra l'altro da gioco moltissimo, qualcuno le relazioni familiari che sono saltate, che si è ritrovato in strada, anche il ceto medio, la povertà ormai è al volto anche della normalità, che si trovano senza casa, hanno delle crisi psicologiche. Il dramma vero è il tema della salute mentale. Pensi che su 100 persone che noi ospitiamo, 40 hanno incontrato i servizi psichiatrici. Anche perché quando diciamo, per esempio, irregolare, questo vuol dire che questa persona non ha un'identità e soffre. Il tema della sofferenza e della salute mentale è diventato drammatico, tanto è vero che Casa della Carità è il luogo di riferimento che noi chiamiamo campagna per la salute mentale, dove si rincontrano tutte le realtà delle associazioni e dei familiari che hanno i sofferenti psichici insieme. Il tema della salute mentale e della sofferenza psichica è certamente un tema grave, pesante, che fa intravedere anche la presenza. E poi ci sono queste accoglienze che sono al limite, non condivise tra virgolette. Noi spesso ci chiediamo, perché poi me lo lasci dire, la mia motivazione per abitare lì, per stare con lì, è una motivazione un po' più profonda delle dinamiche politiche, evidentemente legata alle radici evangeliche. Spesso con i miei operatori ci chiediamo chi ce lo fa fare. Già. E attorno a questa domanda ritornano delle motivazioni etiche di senso che restituiscono a noi un senso che non è commerciabile, non è venduto. La gratuità è un grande valore che deve ritornare come capace di attrarre credenti, non credenti. Noi abbiamo uomini e donne di religioni diverse, eppure con molta semplicità, anzi forse la religione più grossa in questo momento lì che abbiamo è musulmana per gli stranieri, abbiamo un bel presempio, io faccio la veglia, prego, sono lì a pregare profondamente la messa di mezzanotte che faremo, che abbiamo fatto in Casa della Carità, è stata un punto straordinario di incontro delle esperienze. C'è clima di dialogo e di possibilità. Questa città che litiga sulle moschee, se invece aumenta il tema del dialogo, del confronto, del volersi bene, lo uso in termini forti, può ritrovare le ragioni del dialogo, della tolleranza, della capacità di stare insieme. Don Virginio Colmegna, un'ultima battuta per gli ascoltatori che magari, appunto, molti conoscono la vostra esperienza, altri no. Come si può magari aiutare? Ma ecco, venite a trovarci, il pranzo di Natale è stato interessante, ci chiedevano volontari, noi abbiamo detto venite a mangiare con noi, vi serviranno gli ospiti, rovesciare un po' la cultura, far capire che l'ospitalità, se poi ci danno anche un sostegno quotidiano, anche economico, perché in questo senso il tema della sostenibilità è un problema serio, però lo vogliamo fare con questo stile di gratuità e con questa, io l'abbiamo chiamato col Cardinal Martini, follia della carità. E allora sentiteci entusiasti, non spesi nelle piccole battaglie che qualche volta non costruiscono solidarietà, ma cementati dentro da questa grande speranza che ci mette insieme. Auguro a tutti di venirci a trovare o comunque di mandarci dei messaggi non solo di sostegno ma di sostenibilità, questo è molto molto importante per noi. Grazie a Don Virginio Colmegna, lo ricordo, è attualmente il direttore della casa, il presidente della Casa della Carità. Io ringrazio lui, ringrazio naturalmente il nostro Filippo Aureggi in regia questa sera. Ancora una volta vi auguro un buon Natale, delle felici feste in famiglia, ma magari in una famiglia appunto allargata, grande, più grande verso quella che appunto ci ha raccontato il nostro ospite. Siamo in conclusione, a tutti voi un saluto da Gigi Donelli.